Gran spettacolo poi alla fine con lo speciale di Marco Forone. Tutto pronto? And the Oscar goes to... Fiato sospeso? Leonardo DiCaprio. Proprio incredibile! Proprio lui! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sometimes I believe, at times I wish you know I can fly. Parte lo spagnolo, nell'area di rigore, lo stacco di testa di Marcos Alonso che porta avanti la Fiorentina, subito 1-0 viola, Marcos Alonso di testa e Reina non ci arriva, palla subito buona per il Napoli che riesce immediatamente a pareggiare con il gol dell'1-1 in 60 secondi. È già successo di tutto, neanche a dirlo, si è svegliato ed è tornato proprio lui. Sono molto fiducioso, sì, noi riusciamo a mantenere la performance che abbiamo mantenuto oggi. Io credo che alla fine anche la fortuna, come dice il mio collega di oggi, che è stato, non dice esattamente è stato così, molto sfortunato, l'ha avuto oggi. Lo ha riconosciuto. Spero che venga per noi già venerdì. Tratto di partita loro hanno avuto due grandi occasioni, l'hanno avute su due errori nostri nell'impostazione, su due palle perse nella nostra metà campo, ma in queste cose loro sono molto bravi. Penso l'andamento del secondo tempo abbia ribilanciato gli episodi fortuna-sfortuna, anche se non è che noi abbiamo avuto sfortuna, ha fatto due o tre miracoli Tadarusano. Ma fortuna sfortuna, è stata una magnifica partita Fiorentina-Napoli ieri sera, una magnifica partita che banalmente ha vinto la Juventus, come oggi scrivono un po' tutti. 800-24-00-24 è il numero verde, poi parleremo anche di molto altro, torneremo sulla crisi dell'Inter, daremo gli Oscar anche noi, non agli attori ma ai calciatori, e poi parleremo di Totti che forse resta a Roma da giocatore, così si dice dopo l'incontro tra Totti e Pallotta. Poi parlerò di un'altra iniziativa di marketing interessante del Torino, molto interessante. Poi parleremo di Stephen Curry, poi parleremo di calcio internazionale, poi parleremo con Pierluigi Pardo che è appena arrivato. Eccoci, come va? Benissimo. Invito alle donne per caricare il toro, Mica male, Paolo Lazio. Grande, tra l'altro, grande, insomma, infatti, ma che foto è? Potremmo farci un salto, una foto del derby. Ma c'è una donna nuda, c'era il derby, non faceva tutto sto caldo. Non faceva tutto sto caldo. No, però evidentemente sai. Ma forse il derby della scorsa primavera. Senti, fammi salutare il sindaco di Firenze. Sì. Signor sindaco Dario Nardella, buongiorno. Come va? Eccoci qui, buongiorno a voi e a chi ci ascolta. Allora, ieri sera si è parlato di fortuna o di sfortuna. Sarri ha detto fortunata la Fiorentina perché ha trovato una grande serata di Tatarusano, che però, fino a prova contraria, è il portiere della Fiorentina. Sì, viene pagato. Viene pagata la Fiorentina per parare. Mi sembra che anche lei ieri sera abbia avuto buone parole per questo giocatore. Beh, è stato molto bravo. Davvero ha fatto un doppio intervento straordinario nel secondo tempo, eravamo tutti con il fiato sospeso, però ha fatto un po' tutto la Fiorentina anche nel prendere il pareggio, quindi devo dire è stata protagonista in tutti i sensi, in una partita comunque molto bella, ha giocato a dei ritmi altissimi, magari tutte le partite del campionato fossero a questi livelli. Sì, è quello che mi fa pensare che forse il momento grigio sia alle spalle, sia per il Napoli che per la Fiorentina. Sì, penso proprio di sì, anche il Napoli che non vede la vittoria da un po' di tempo, però ha fatto un bel secondo tempo, insomma ci siamo divertiti molto, è vero che tra i due litiganti il terzo gode, come sì. ha detto lei a sì. proposito della Juventus, però certamente sono due squadre, Napoli e Fiorentina, che meritano alla grande la Champions. Assolutamente. Sindaco, ma per la città che cosa, quanto conta, quanto pesa il buon umore anche nell'economia cittadina che la Fiorentina vada bene? Pesa tanto, tu conosci bene Firenze, no? Ne abbiamo parlato anche tante volte. Certo. Firenze spesso vive in simbiosi la sua condizione di città e di tifosa. Io ogni volta ne resto sempre più sorpreso e quindi conta molto in generale, vorrei dire, sullo spirito, anche sull'ottimismo, ha una certa influenza. Io sono convinto che come dire, anche il calcio può fare la sua parte nello spirito e nel sentiment, come dicono gli inglesi, della certo. città rispetto a tutti i progetti. E vuoi incrementare. Quindi, anche il PIL cittadino. Se vince la Fiorentina, io da tifoso e da sindaco ho due motivi, non uno solo per essere contento, certo. mettiamola così. Sì, dispensa buon umore la viola. Però, esatto, però secondo me sportivamente, Pier, Firenze può anche accontentarsi di voglio dire, di giocare un campionato di questo tipo. Devi andare perché a dirlo spesso, a Firenze. Lo so, però io rimango di questa idea di avere partite con quella di ieri. Dire a Fiorentini si devono accontentare è come dire a Dracula di rinunciare, diciamo, esatto, al sangue. I fiorentini non si accontentano mai, il sindaco ne sa qualcosa da questo punto di vista, ma è anche il bello di Firenze, che non vince tra l'altro qualcosa da molti anni, e vorrei ricordare però è da tanti anni che sta sempre lassù, certo, insomma sempre quarta, quinta. Però accontentarsi no, No, di questo no, come si fa? Ma questo è il problema delle grandi città, bravo, di calcio, che però certo, sai che la parola fatturato è la parola più usata ormai, che sono però un filo dietro, nel caso della Fiorentina anche un po' più di un filo dietro, per cui poi il terzo posto per me è un miracolo sportivo, se guardiamo razionalmente, ha ragione, analiticamente, però vaglielo a dire al Marisa, cioè no, col livello di passione che c'è, con la storia che c'è, insomma, mica facile. Ma guarda, tu hai ragione, dovremmo fare un raffronto tra i monte ingaggi e anche il valore delle rose e la classifica. Sì, uno dice sì, serve, però insomma capisci che davvero la Fiorentina sta facendo un grandissimo campionato, certo. E voglio dire, merito anche della società e della Valle, che non è affatto vero che non tengano. Ieri ho rivisto Andrea con grande piacere allo stadio e l'ho visto partecipe, soffrire, tifare come sempre, che dimostra che lui tiene molto alla squadra e tiene a questo progetto. Insomma, Firenze sta vivendo un bel periodo, una bella squadra, una grande società, una famiglia importante che la segue e la supporta, non è che ci siano tanti esempi in giro. Per la primavera cosa abbiamo in agenda per la città? Sono stato l'altro giorno, c'era un flash mob di gente che si baciava il 14 febbraio a piazzale Michelangelo. È vero. Però io ero senza moglie, quindi non sono andato, mi sembrava brutto, insomma, un tassico maniaco. Però nonostante la pioggia ha funzionato. Beh, vi posso dire che cominceremo l'estate fiorentina in anticipo a fine aprile, la notte dell'ultimo giorno di aprile con il primo maggio, e già abbiamo annunciato un grande concerto di Sting, quindi sicuramente uniremo, come abbiamo sempre fatto, il calcio, il grande calcio e la grande cultura. Grande. Grazie sindaco. Grazie. Alla a voi, prossima, Dario Nardella. Grazie a Dario Nardella, sindaco di Firenze. E poi ci torniamo anche io e te a fare una trasmissione. Sì, sono stato due volte l'ultimo mese, poi col treno. Adesso non voglio far bruciare il treno, però. Poi non ci hanno più voluto. Non ci ho più voluto al Pitti. Perché? È perché mi sa che ero io che ero grosso e gli rovinavo l'immagine. Ma che mi hanno detto che dovevo dimagrire. Ma non fare così. Sì, sei un figurino. Ma sei un figurino. Ma ho detto taglie forti, facciamo fine ottobre, una settimana in uno sgabuzzino. Traffico. Tutti convocati. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Vi presento. Tutti convocati. Mister Boris Solazzo, buongiorno. Buongiorno. Come va? Va benissimo, devo dire va benissimo. Mi sembra benissimo. Di aver scampato un pericolo. Vabbè, scampato un pericolo o perso un'occasione? No, scappato un pericolo, insomma, bisogna essere onesti, nei primi 30 minuti poteva finire 4-0 e d'accordo, e ciò, no, che Alonso, non ciò che Alonso ha tolto ha ridato subito dopo, per fortuna, ma il Napoli non ci ha capito molto per una buona mezz'oretta, al di là del fatto che la seconda traversa era su un fuorigioco che non è stato visto, che è stato visto per Higuain ma non è stato visto per loro. Però voglio dire, loro capiscono tutto e fanno tutto benissimo per mezz'ora, e siccome nelle partite conta molto come si parte, se tu lì prendevi quei due o tre gol probabilmente non l'avresti recuperata. Poi è vero che nel secondo tempo loro non tirano in porta e tu hai due grandi occasioni, che forse la grande squadra e forse la Juventus ci sarebbe riuscita, avresti dovuto rubacchiartela quella partita. Però poi, se devo pensare a come ero annichilito nel primo tempo, riesco a sopportare, insomma, l'occasione perché, per la sprecata nel secondo. Pierluigi, perché è così pessimista Sollazzo? Non lo so, non vorrei che fosse passato al piano B, cioè quello di difendere il secondo posto, che sarebbe una mostruosa sciocchezza, anche perché adesso, voglio dire, con tutto il rispetto, però c'è Napoli-Chievo, poi c'è Palermo-Napoli, poi c'è Napoli-Genoa, insomma. Non è un brutto calendario. Però è un pericolo scampato proprio per questo, perché se tu avessi perso quella partita, e con, io dico, il Napoli veniva da quattro risultati bugiardi, secondo me nessuno di quei pareggi e di quelle sconfitte erano meritate. Arriva a Firenze e se perde, e ha rischiato seriamente che questo accadesse perché l'inizio è stato drammatico e ottimo da parte della Fiorentina, se perde deve abbandonare assolutamente i sogni di primo posto e probabilmente entra in un vortice in cui Fiorentina e Roma possono recuperarla. Così, secondo me, uno o tre punti dalla Juventus non cambia moltissimo, perché tanto tu devi fare comunque un super finale di campionato, e a quel punto, insomma, uno o tre punti non conta nulla, ma è importantissimo aver tenuto a 5 punti le altre due squadre. Quindi per me è un pericolo scampato per come ho visto la partita. Se me l'avessi chiesto prima della partita, ovviamente l'avrei detto altro, La sensazione che ha lasciato la partita di ieri sera, bellissima, ripeto, una delle più belle del campionato, poi parliamo facciamo nomination sui giocatori, ma una delle partite che va nelle nomination tra le più belle del campionato. Tutte e due, tra l'altro, bisognerebbe riflettere sul fatto che, insomma, Paolo Sousa e Sarri hanno fatto un grandissimo lavoro, perché non è un caso. Però Boris, voglio dire una cosa un po' controcorrente, è vero, però è vero pure che non sempre il calcio bello è anche il calcio che vince, nel senso in Italia quasi mai, è vero. No, ma voglio dirti che in generale, per esempio, Juve-Napoli è stata una partita brutta dal punto di vista estetico, però insomma non mi sento di fare una colpa a Allegri sul fatto di aver fatto una partita brutta, nel senso che, però sono d'accordo che Napoli e Fiorentina sicuramente meritino il premio della critica fino a questo momento, non c'è dubbio dal punto di vista estetico. Però la sensazione che ha lasciato la partita di ieri sera è di due squadre che forse nel momento buio, grigio, l'hanno lasciata alle spalle, no? Sì, su questo sono d'accordissimo. No, io scuoto la testa. Sono due squadre che hanno fatto una figuraccia in Europa, la Fiorentina col Tottenham un pochino più rumorosa, fragorosa. Il Napoli sicuramente ha delle attenuanti, non le ha certamente detto bene col Villarreal, su questo non c'è dubbio, però comunque io consideravo il Napoli una delle grandi favorite dell'Europa League, e insomma è uscita nei sedicesimi, quindi è un'enorme delusione. Però posso dire che secondo me la partita di ieri è una fotografia perfetta, nel senso è una fotografia di due squadre che si sono lasciate il peggio alle spalle, una fotografia dei limiti di quelle squadre ed è una fotografia dei loro grandi pregi. Cioè, credo che sia proprio la summa perfetta di tutto quello che potrebbero fare Fiorentina e Napoli e che rischiano di non poter fare forse perché non hanno avuto abbastanza coraggio i presidenti, perché secondo me nessuno dei due presidenti pensava a questo punto del campionato di trovarsi in quella posizione, pensavano secondo me di avere rose e allenatori non così forti, e quindi ora si trovano a giocarsi una sfida che in estate pensavano di non dover giocare. Questo ovviamente si ritrovano. Sì, questo può essere, anche se De Laurentiis ha sottolineato chiaramente come per lui ci sono nel suo Napoli, ci sono 24 giocatori. Assolutamente. Non ce ne sono neanche 15, temo. Tu quanti mattoni hai nel corpo? Sai la cosa del mattoncino di Higuain? Io temo di avere un muretto, purtroppo, però insomma me lo porto con dignità, ecco. Sì, però a me è sembrato un po' una forzatura, quella del presidentissimo. Posso dire una cattiveria? Ma anche due. Posso dire una cattiva? Allora, quando bisognava vendere l'Arezzi, l'Arezzi era uno a cui piaceva la bella vita. Quando bisognava vendere Cavani era un mercenario. Adesso che bisogna vendere Higuain è uno che tende a ingrassare. Tutte cose vere, perché pure Higuain tende a ingrassare, probabilmente sono pure 3 chili, non 1,5 chili, ma un presidente che vuole tutelare il proprio giocatore, l'ultimo a cui lo va a dire, va dall'allenatore e gli dice: senti, fallo dimagrire perché così non si può vedere, che poi non è neanche vero, però, perché poi ieri segna un gol a solo apparentemente facile. 1,5 chili non cambia niente per un giocatore di Higuain, è scappato, dai, siccome io non credo che sia scappato, io conoscendo Aurelio De Laurentiis non dice mai le cose a caso, quindi se lo ha detto è perché, siccome è venuto il papà, è venuto il fratello, non riescono a fare il rinnovo. In qualche modo si sta iniziando a preparare il terreno, tu dici? Facciamo una cosa, Sollazzo. Adesso non fare più il tifoso napoletano, torna a fare il critico cinematografico. Okay. Non cinematografico, può parlare anche dell'Oscar di DiCaprio se vuoi, però calcistico. Allora, le nomination: miglior calciatore protagonista. Sicura contro uno, in cazzo in mezzo, Higuain, il pipita! Dybala, controllo e tiro, violento, rete, che gol, capolavoro di Dybala! Porca Valero al limite, Bernardeschi, palla buona, Porca Valero! And the Oscar goes to... Gonzalo Higuain! Per parlo di Gonzalo, sono d'accordissimo, però insomma mi sembra anche ingeneroso perché voglio dire, allora Dybala è il migliore esordiente. Dybala è il migliore esordiente, sicuramente. Dybala è il migliore. Porca Valero gli si può anche dare il premio alla regia, per esempio. No, ma sì, regia, non protagonista, sta, insomma, sono secondo me tutte e tre da mettere sul podio, però mi sembra che non ci sia dubbio che Gonzalo Higuain sia il Napoli senza Gonzalo Higuain probabilmente sarebbe Leonardo DiCaprio della situazione. Sarebbe dove sta il Milan, quindi voglio dire, non c'è paragone proprio, Higuain è determinante come forse nessuno è stato determinante negli ultimi 10 anni Italia, insomma. Non si discute questa statuetta. Ma pure la carriera. Non esagerare, non fare tifoso napoletano, ti ho chiesto per anche il Nobel per la pace. Tre minuti, miglior rivelazione. Vai. Mertens trova il corridoio per Jorginho ed è il 3-0 per il Napoli. Saponara che vuole andare da Pucciarelli, sbuca Zielinski, il pareggio dell'Empoli con Zielinski. Porca Valero, subito l'apertura per Bernardeschi in area di rigore, Federico Bernardeschi, 1-0. And the Oscar goes to Bernardeschi. Sì, direi anch'io Bernardeschi, sono pazzo di quel giocatore, quest'anno poteva fare meglio, però Bernardeschi direi che è quello che fra 10 anni io lo vedo tra i grandi del calcio italiano. Anch'io lo spero, fa impazzire anche me come giocatore, però io direi Zielinski, perché è un giocatore del sottobosco, ovviamente. Guarda, non gioca. Bisogna però valutare che cosa intendiamo come rivelazione. Bisogna valutare, perché forse Zielinski è più rivelazione, insomma, nel senso I'd che like to say it thank you so much. Scusate, c'era il discorso di Bernardeschi. Però Bernardeschi mi sembra veramente, cioè, comunque uno che fino a 2 anni fa giocava in Serie B. Che fa delle cose meravigliose, insomma, I'd love to say to all my friends at Bar Marisa thank you so much and all the guys in Curva Fiesole and the CAV, CAV the Collettivo, thank you so much. Oh, thank you. Grazie a Bernardeschi, grazie, passiamo Oscar. Miglior regista, dai. Questa partita ci ha riportato un po' con i piedi per terra, perché dopo il 4-0 di domenica c'era un po' troppa euforia all'interno e all'esterno della squadra. La soddisfazione è evidente, non è che succede spesso di venire a San Siro a vincere 4-0. Non sono un allenatore che penso a una squadra per pareggiare o per perdere. Io penso sempre a vincere, io costruisco il lavoro con tantissime convinzioni per vincere. And the Oscar goes to... Maurizio Sarri. Sì, come faccio? Io mi sforzo di non fare il tutto in questo momento, insomma. First of all, I want to say thank you and I want to smoke a cigarette. Perché fuma. De Luca mi dice devo stare calmo perché ci è creduto tanto in questo giochino qui degli Oscar, hanno fatto sta cagata. No, dico questa cosa bella, fatta molto bene. Fra l'altro ieri sera a Tiki Taka l'abbiamo fatta alle 2 di notte così con un casino. Invece qua è bella, di classe, con le clip. Quindi bravo De Luca. Però c'è il discorso di Sarri. Well, I thank you, Mr. President De Laurentiis. Cioè, sarebbe anche Spalletti. Well, the right behaviors have to be... Look at Salah, what he does when he goes back at the minute 75. Right comportaments. Yes, yes, right behavior. Ecco, salutiamoli tutti, Quindi però siamo devo, a dire, Sarri. Devo dire che io posso dare un Oscar ad Allegri per un pezzo di stagione perché quella rimonta che ha fatto Carlo è testimone che io l'ho detto quando la Juventus stava credo a 14 punti dal Napoli, ma perché secondo me Allegri è uno dei più tra i grandi, è uno dei più sottovalutati. Ma infatti guarda, lo do Sarri perché Allegri ha vinto l'anno scorso, sai, questi discorsi così, ma Allegri no, Sarri secondo me riesce a dare un grande gioco, grandi risultati, poi ovviamente purtroppo queste 12 partite saranno determinanti. Io temo che fra 12 partite dovrò darlo ad Allegri. Però insomma ora come ora a farlo adesso è Sarri perché è quello che dà di più rispetto al materiale umano che ha. What I think is that Fabio Capello deserves to win another award. I want to say thank you to all the guys at the, come si chiama lì la cosa, l'Academy, come si chiama? Sollazzo, lei che... l'Academy. I want to say thanks a Beniette. De Luca dice time out. Non gli è piaciuta, dice ciao, che cazzeggio Boris. Troppo. Ciao. 800 24 00 24, anche perché ho trovato la pagina con il numero telefonato. Stiamo superando tutti. Mi dispiace anche per i programmi, per gli altri, ma insomma, veramente è impressionante. Che vuoi fare? Sono cifre pazzesche. Cifre addirittura ci hanno chiamato per ora. Addirittura, sai quante persone? No, è pieno. La pagina non l'ho trovata. Dai, 800 24 00 24. Forza. Diga. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presento. Tutti convocati. Fughe in questo campionato credo che non ce ne saranno. È un più 3 importante, però fino a che la matematica non ci dà lo scudetto bisogna stare lì e bisogna stare concentrati. Siamo nel finale di stagione, è un finale importante che va giocato, però per ottenere risultati non bisogna pensare che abbiamo già vinto, che assolutamente due squadre che possano arrivare a 86 punti, a 86 punti credo che ci sia la quota scudetto e quindi bisognerà ancora lavorare. Come abbiamo fatto bene fino ad ora, a pensare partita dopo partita, bisogna farla anche ora. Queste sono le cose che ha detto oggi Allegri. Sì. Fissato a quota scudetto 86 punti, dice fughe non ce ne saranno. Intanto la Juventus è a più 3. Spero davvero che abbia ragione, che fughe non ce ne siano. Tanto stiamo cercando, mentre facciamo gli auguri a Giorgio De Luca che compie gli anni. Sì, è una settimana calda per noi. Appunto, festeggiamo gli anni tutti nella stessa settimana. Anzi, stiamo cercando persone, accettiamo curriculum, però devono essere tutti nati nella settimana fra il 28 febbraio e il 5 marzo. Per una questione. Sì, facciamo il 7 marzo. 7 marzo ci manca il 5. Papà 7 marzo, appunto, ci manca il 5. Sì, tra quelli che conosciamo ci manca qualcuno che sia nato il 5. Il 5 marzo, sì, ci manca. Ci manca, quindi fatevi sotto. Anche il 2, anche il 2. Il 2 di marzo. Mi hai detto che ti manca il 2. Anche il 2, sì. Ma tu ce l'hai però. Il 2. Sì, vabbè, ce l'ho, però conoscente. Ci manca anche il 2, poi giochiamo a tombola. Allora, per quanto riguarda gli Oscar, poi su Twitter sono venute fuori cose anche divertenti. Donadoni, va bene, si può essere miglior regista. Su WhatsApp mi scrivono Ventura alla carriera, in questo caso magari non, Ventura quest'anno no, ma secondo bravo, me un amico, non c'è niente di grave nella, secondo nel, me nel però Toro può valere. Miglior rivelazione Kučka, questa non l'ho capita benissimo. Kučka, diciamo, una buona stagione, ma mi sembra tanta roba. 800 24 24. Donnarumma ci sta, certo, come rivelazione ci sta. Vincenzo, buongiorno. Vincenzo? Pronto, sono Vincenzo da Ferrara, grazie per la convocazione. Grazie a lei, dica. Volevo fare una critica feroce a Mancini. Sì, facciamolo. Volevo dire questo, Mancini non convinceva anni fa e non continua a convincere adesso. Nel frattempo qualcosina ha vinto, no? Nel frattempo qualcosina ha vinto, però in Italia ha vinto quando mancava la Juventus in Serie A, che è come fare il campionato di Formula 1 senza la Ferrari. E poi anche squadre che erano penalizzate, e anche allora non convinceva, e adesso mi spiace, no, ma questo me è vero. Un allenatore che non fa il caso nostro. No, perché è sfumato, è cascato. No, secondo me insomma, che sicuramente i successi dell'Inter negli anni post Calciopoli siano stati successi importanti, ma che in qualche modo, se facciamo una valutazione complessiva, fossero stagioni un po' falsate, su questo non c'è dubbio. Io mi ricordo che la Roma, che era la principale antagonista, doveva praticamente vendere un giocatore all'anno, spesso alla stessa Inter, l'ha fatto con Chivu, l'ha fatto con Mancini, nel senso che per riuscire a salvare il bilancio aveva bisogno di fare così. Quindi questo sicuramente va detto. Secondo me, in assoluto, quelli che hanno vinto come Mancini non sono molti in carriera. No, quindi chiaro. Io non condivido del tutto il giudizio. Poi anche al City non mancava nessuno in quegli anni nel campionato inglese, quando lo vinse Mancini. E il City non vinceva da 56 anni, quanti anni? Sì, sì. Una roba di mezzo secolo, insomma. Quindi anche quello va inserito nel curriculum di Mancini. Poi non era esattamente colpa sua, no, se i due campionati che ha vinto con l'Inter erano privi, nel primo caso di Juventus, nel secondo caso sì, insomma, secondo me come tutte le cose c'è l'equilibrio e il giusto mezzo. Sicuramente quei campionati lì sono stati meno difficili rispetto ad altre imprese sportive compiute da altri, però insomma non è che adesso allora non valgono nulla, valgono comunque, così come vale lo scudetto vinto al City e così come valgono la prima Coppa Italia vinta con la Fiorentina. Insomma, secondo me non stiamo parlando di un allenatore scarso, mi sembra veramente una cosa ingiusta. Detto questo, poi, che nella storia del calcio ci siano allenatori che possono essere considerati più vincenti, che rappresentino anche dal punto di vista filosofico un'ispirazione più forte, su questo non c'è dubbio. Marco, buongiorno. Buongiorno. No, niente, io sento tutta una disquisizione su Mancini, anche io sono più d'accordo con l'ascoltatore, in quanto anche nella gestione dei campioni Tevez e con Mancini. Ma meglio Mancini o Mazzarri? Ma io penso sia lì è ora dura, perché Mancini ha avuto tutto un percorso molto più facile, molto più sponsorizzato e forse un po' più carisma. Però Mazzarri, cioè, come gioco Mancini, io ecco non l'ho mai visto giocare le sue Inter. Noi ci ricordiamo che quando l'Inter di Mancini che ha vinto aveva depositato la Juventus e tutti i migliori campioni, c'era Ibrahimovic, ci vedrà. Insomma, non parliamo di una Inter che ha fatto 100 punti, ma una squadra stellare, e poi Mourinho ha vinto il triplete aggiustando. Però non volevo parlare dell'Inter, sennò poi perdo volevo parlare della Fiorentina. Sì. Eccomi, scusi, no, il tempo è... Volevo parlare, cioè, che mi dispiace perché vi ascolto sempre attentamente. Mi date un secondo, perché sembra che noi tifosi della Fiorentina siamo cascati dal pero, siamo tutti ingrati contro la società. Ecco, se noi vorremmo farvi capire ai media nazionali che noi non è che si voleva Messi o si voleva... Noi a settembre, cioè la Fiorentina, società fiorentina, aveva detto che mancava un difensore. Ora, arrivati a marzo, la Fiorentina è sempre senza difensore. Il rammarico di noi tifosi, al di là delle figure che si è fatto con Salacco, con Berbatov, cioè tutte promesse che poi si sono dileguate... Però parlavo di questo malumore che si crea forse anche di comunicazione fra la società e tanti del tifo, noi tifosi che prendiamo l'acqua, andiamo allo stadio e non vi credete, perché noi non facciamo come a Roma che ci fanno le bombe carte, o a Napoli che sembrava che non c'è dubbio, però insomma io penso che su questa stagione al di là di un difensore che balla in più in meno ci sia veramente poco da dire, con la ragione che Luigi non so fa... che di quali bombe carta si faccia riferimento. No, ma il pubblico viola è un pubblico meraviglioso, cioè il punto di partenza è proprio questo, è la cosa che dicevo anche prima a Nardella, cioè che è ovvio che la Fiorentina, che il tifoso della Fiorentina non si voglia accontentare, non si debba accontentare, perché in qualche modo è l'incarnazione di una storia straordinaria, di una passione incredibile. Andare a Firenze a vedere il calcio è una bellezza assoluta, lo dico proprio da telecronista, da appassionato di calcio, è di una bellezza assoluta, c'è cioè un livello di cultura calcistica in città incredibile, in qualche modo legata anche al fatto che ci sono tanti allenatori toscani, che c'è certo, Coverciano certo, che praticamente è un rione di Firenze, quartiere di Firenze. Quindi questo è indiscutibile, è che poi, e questa cosa non è che mi piaccia, sicuramente dal punto di vista del famoso fatturato, la Fiorentina è in una dimensione che porta la possibilità di competere con la Juve, ma anche per esempio con Inter e Milan, come qualcosa di prodigioso, per cui vederla lì in classifica è impressionante. Poi se entriamo nel merito del difensore in più, dell'acquisto in più, posso anche essere d'accordo, però la valutazione più complessiva secondo me è questa. Detto questo, non dico che il tifoso della Fiorentina si debba rassegnare, anzi, no, però deve essere contento di avere questa squadra qui, cioè, penso o di vivere di sì, serate come quella di sì, ieri sera. Penso di sì, perché poi alla fine vince una, sono 20, e questo è abbastanza triste, l'abbiamo detto mille volte, cioè, nel calcio moderno, con la Champions che fa da divaricatore, da uno strumento che allarga la forbice fra le grandissime poi, e le squadre medie, è chiaro che è difficile sono competere. Dimensioni in tutti i campionati europei, ci sono squadre che hanno una dimensione che francamente non possono e non riescono ad andare oltre quella dimensione proprio per questioni economiche. Ci fermiamo per il traffico, poi torniamo. Tutti convocati. Tutti convocati. Con la dietrologia poi si esagera anche, ma non capite che Mancini, scrive su un ascoltatore su WhatsApp, Mancini allontanato da Moratti per vincere in Europa è stato poi suggerito a Toir ed è stato un modo per tirare un pacco al nuovo proprietario. Vabbè, siamo veramente la dietrologia non ha confini. La dietrologia, no, io penso che sicuramente, insomma, l'ho detto mille volte, Mazzarri, che non era più difendibile dal punto di vista ambientale, non abbia fatto così male. Ecco, mi sento di dire questo. Mi sento di dire questo perché poi la stagione scorsa sappiamo che alla fine Mancini, nonostante gli acquisti, non è riuscito a svoltarla, e anche quest'anno, nonostante i grandi investimenti, questa squadra fa fatica. Quindi forse però Mazzarri è stato causa del suo mal, nel senso che poi comunque alla fine l'aspetto mediatico, l'aspetto della ricerca anche del consenso, del rapporto con i tifosi, è un aspetto importante, non si può pensare che sia un dettaglio. Ma tornando alle parole di Allegri, secondo te fuga o non fuga la Juve? No, fuga no, io penso che adesso il calendario, che si possa andare avanti così. Io penso che Napoli adesso abbia 3 partite De Luca da vincere, ma già stai così, 5 partite. Allora sentiamo, De Luca, vai. Cioè, calendario è Napoli-Chievo, segue Palermo-Napoli, poi segue Napoli-Genoa, segue Udinese-Napoli e poi segue Napoli-Centrale. Napoli secondo estratto, lo dico io. Non sa, chi se non sa il calendario, c'è, cioè, Napoli-Verona. Tredicesima giornata di ritorno, poi c'è Inter-Napoli alla quattordicesima. Quindi quello che dice De Luca è: bisogna fare 15 punti in queste 5 partite, no? Ecco, lo dice così. Ma anche perché la Juventus non penso abbia intenzione di fermarsi. Ma no, io penso. Penso che, insomma, il Napoli non ha vinto 5 partite consecutivamente, ma erano 5 partite complesse. Tutte complesse, perché poi anche il Milan, che certamente è qualche punto più indietro in classifica, ha perso una delle ultime 17 gare ufficiali. Quindi sicuramente il Napoli ha deluso in questo scorcio di stagione, però adesso si può rimettere in carreggiata, rimanere lì e sperare che la Juve alla lunga possa pagare avere un qualcosa po' di stanchezza. Certo, oggi la favorita è la Juve, non credo non ci siano dubbi. Fabio, buongiorno. Buongiorno, ciao. Ciao. Come prima va? Cosa vuol dire che io sono nato il 2 marzo, per cui abbiamo finito la settimana. Abbiamo risolto. E il 3, scusate, okay. Chi c'è il 3? 3 mia sorella. Ah, vabbè, ho capito. Allora facciamo il 6 mio zio, il 7 mio padre. Infatti, qua l'utilizzo della radio. Dica, signor G. E poi volevo dire, io sono juventino e volevo solo far notare che Allegri, quando diceva Ius, credo, Laimonte, eccetera, io poi, insomma, su Facebook vedevo, insomma, no, ma questo è pazzo, Mandovao, eccetera, eccetera. Invece io ero dei pochi convinti che noi potessimo arrivare là, per cui secondo me, come avevo scritto quando era la 12ª giornata, quest'anno vinciamo il quinto. E per me non ce n'è di altro. Io invece ci credevo poco, a una rimonta di questo tipo ci credevo poco, anche perché la Juventus ne aveva tante davanti e tante che correvano, poi pian piano si sono un po' tutte incartate. Bisogna dimenticarsi che Juve era il secondo tempo col Sassuolo neanche male in 10 contro 11, però comunque una squadra che aveva problemi. Lo stesso Juve-Torino, che è la partita che ha iniziato la rimonta, è una partita nella quale la Juve rischia di perdere, non di pareggiare, rischia di perdere nel secondo tempo. Chi si ricorda quella partita lo sa benissimo, c'è stato un miracolo clamoroso di Buffon e poi arriva questo gol all'ultimo minuto. Però è la forza delle grandi squadre, sì. ogni cosa ha un senso, tutto ciò che è razionale è reale, tutto ciò che è reale è razionale. Adesso non dobbiamo fare... Sì. Filosofia, cioè no, dobbiamo mostrare però, degli studi classici che fra l'altro non abbiamo fatto. Vedi come Allegri era un piscuano quando la Juventus stava là dietro. Piscuano, e adesso il piscuano è diventato Mancini. Ciao Evaristo Beccalossi. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Piscuano per tutti, questo è un plebiscito contro Mancini. No, ho sentito solo Mancini, c'era un'interferenza, non ho sentito quello che avete detto prima. Guarda, ti faccio rispondere a dei messaggi. Allora, Simone di Ravenna ci dice: Mazzarri, peggio di Mancini, ma ha avuto il pregio di aver fatto giocare bene Nagatomo e Jonathan, il divino Johnny che salutiamo. Poi, te ne leggo un altro, di Claudio da Milano. Vince all'ultimo minuto dell'ultima giornata il City con Tevez, Agüero, Touré, Balotelli, una squadra assurdamente forte. Scudetti italiani, il primo rubato, il secondo contro la Roma normale, vinto comunque negli ultimi minuti, sono queste le vittorie del Mancio. E sì, l'ultima cosa, ma scusate, un allenatore come Mancini che non capisce la difesa zona, non sono capaci di farla eseguirla, cosa si può dire? Non l'ho capita questa. Comunque, risponda, prego. No, credo che siano giudizi anche pesanti e che non lo meriti, questo è un dato di fatto. Poi nelle valutazioni, secondo me, ci vuole anche un certo equilibrio. All'inizio del campionato tutto il mondo, credo, sapesse che Juve, Napoli e Roma erano le squadre più forti. Quindi io do molto merito a Mancini e a Paolo Sosa che si sono infilati sfruttando la partenza non felice di Roma e Juventus. Adesso sta venendo fuori i veri valori. Chiaro che si è in difficoltà perché, per esempio, io credo che parecchi giocatori che si cercava appunto sono stati presi per la qualità e hanno reso meno secondo le aspettative. Però adesso fa processi, negatività, l'Inter doveva vincere... è lo scudetto, cioè sono tutte pirlate secondo me, perché no, però, non è mai stata, però non è mai il terzo stata posto terzo posto però è l'obiettivo dichiarato e potrebbe essere l'estate della grande paura, la prossima, ecco. Ma sicuramente la realtà è che sei in grande difficoltà in questo momento, però è anche vero che nella difficoltà bisogna far capire che si è squadra, che si bisogna, se non vai in un certo modo devi provare tutte le possibilità per cercare di agguantare il terzo posto rispettando i valori che ci sono in campo, perché prima ho sentito il tifoso juventino, era sicuro e tutto che la Juve sarebbe tornata, però io mi ricordo il primo periodo quando Allegri l'ha massacrato e non fa giocare Dybala. Pensa se giocava Dybala quei primi mesi lì, ecco, un giocatore ha pagato 30-40 milioni di euro, quindi nel calcio grande rispetto per le opinioni, però un po' di equilibrio ci vuole. Però sono come il vento, vanno dove il vento le porta, le opinioni. Sì, però un po' di obiettività. Dai, anche Mancini ha fatto passare il giro d'andata che era un fenomeno, perché tutte le domeniche cambiava formazione, modulo, e noi stavamo tutti a dire, me compreso. Che bravo. La squadra in mano ha inventato qualcosa di diverso. Ritiene tutti sulla corda. Come ha cominciato a prendere le travate, però cambia sempre formazione. Credo che andiamo a analizzare che ci si aspettava di più, perché anche a livello ci si aspettava di più anche dai giocatori, Pierluigi, esatto, perché sì, però in questo momento la bocciatura degli slavi mi sembra eccessiva. Eder è già finito in panchina, Perisic inseguito per 6 mesi, viaggio di campo e panchina. Io Evar Becca, quello che quello che rimprovera quello che diceva ieri Bonolis, cioè secondo me a gennaio, con una fish da poter spendere sul mercato, insomma, lui ha scelto un attaccante, ha scelto di fare l'investimento davanti quando forse insomma in mezzo si è provato con qualcuno, ma non però a me sembra che lui abbia diciamo, demandato tutta la fase offensiva, tutta la creatività ai tre tenori davanti. E a centrocampo abbia scelto invece una formula muscolare. Alla lunga, forse, con una squadra così. Ma è un'osservazione giusta, Pier, perché se tu dici non trovo un regista, quindi devo giocare con giocatori forti fisicamente, magari non so, esperti, però magari punti sulla muscolarità e sposti la fantasia davanti. Ecco forse la scelta di Eder. Ma probabilmente ci sta anche sbagliare valutazioni, perché allora adesso con Dobia, secondo me, le ultime 3-4 gare le sta facendo bene, però all'inizio un giocatore che ha sofferto anche lui l'inserimento in un campionato tantissimo, italiano. Tantissimo. Quindi è una squadra che è cambiato tanto. Adesso a me preoccupa, da tifoso e da poco conoscitore dell'ambiente nerazzurro, a livello psicologico, cioè devi ribaltare la situazione. Abbiamo visto la Roma con Spalletti. Cioè c'era Garcia che era diventata una squadra piatta, è arrivato Spalletti, motivazioni nuove. Quindi in questo momento, al di là di andare a cercare i responsabili, bisogna recuperare i giocatori e fargli capire, tirare una riga, si va a manetta e vediamo quello che succede, perché altrimenti non riesci a partire. Ha provato a farlo, ma non sembra si stia riuscendo. Grazie Becca, alla prossima. Ciao ragazzi, ciao. Scusate, ciao. Abbiamo la GR adesso. Abbiamo GR. Torniamo, anche perché sono curioso di sapere la tua, di sentire la tua. Parleremo di Steph Curry, parleremo di campionati di calcio in giro per l'Europa, ma sono curioso di sentire la tua su Totti e su questo rinnovo che dovrebbe essere sul tavolo, complice lo sponsor tecnico. Vi spiego poi perché. Saluti! Tutti convocati. Digital Radio. Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Tutti convocati. Allora, Pierluigi Pardo, io ti volevo chiedere. Io sto facendo sport. Sì, stavi giocando a basket qui in studio, sì, con una pallina blu, un mappamondo blu, pallina di gomma, difficile controllarla. Parlo di giocatore di basket, non male, vorrei vederlo in campo. Beh, senti, ma invece, facciamoci un playground. Ma perché no? Io non ho più un crociato, però insomma. Ma nemmeno io. Farò. Ascolta. Sì. No, due iniziative di marketing che mi incuriosiscono. Una reale, ed è quella che ho citato prima, con il Toro che, dopo aver invitato i tifosi a prezzi popolari a partita con il Carpi, adesso festa della donna, l'8 marzo, il 6 giocano con la Lazio, le donne entrano con 1 euro, 2 euro, 3 euro, massimo 10 euro per l'esclusiva tribuna Grande Torino. Sì. Anche in questo caso, secondo me, Cairo ci ha visto giusto. Assolutamente. L'altra, invece, non è un'iniziativa di marketing ancora presunta. Pare che Pallotta e Totti siano detti: ci vogliamo ancora bene. Vuoi giocare, Francesco? Ti faccio un altro anno di contratto. Quindi, oltre la soglia dei 40 anni che compirà a settembre, se non ricordo male. E pare che dietro a questo ci possa essere la Nike che vorrebbe vendere l'ultima maglia del capitano. Sì, ma io penso che, allora, dal punto di vista commerciale e dal punto di vista, diciamo, dell'immagine, non esiste un brand come quello di Francesco Totti. Sì. E un'identificazione così forte è un valore. Cioè, per la Roma è un valore che in un modo o nell'altro Totti sia parte ancora e per sempre. Come giocatore? Come giocatore non necessariamente, nel senso che tu la maglia dell'addio la puoi fare pure fra due mesi, se si decide di fare l'addio fra due mesi e fare una maglia speciale, e Nike il business lo fa comunque. La verità è che Totti ha voglia di giocare, e quindi probabilmente dal punto di vista commerciale Pallotta si rende conto che che la soluzione più interessante è quella, la soluzione migliore è quella. Il problema potrebbe nascere poi nella, no, nella quotidianità, di fronte a tutta una serie di panchine, a tutta una serie di situazioni difficili da gestire. È un problema squisitamente tecnico. Ha detto cosa ha detto Boban? Dovrebbe arrendersi alla realtà, ormai gioca due all'ora, sarebbe meglio che smettesse. Sì, anche se mi viene da dire che Totti Totti è stato longevo. Totti è stato longevo, cioè, la verità è che Totti fino a un anno fa, ricordiamo la famosa doppietta nel derby che era, se non sbaglio, il 9 gennaio del 2015, quindi non parliamo di 4 anni fa, parliamo di 13 mesi fa, 14 mesi fa, Totti è stato un giocatore ancora in grado di fare la differenza, è un giocatore molto importante. Quest'anno ovviamente molto meno, anche per i problemi fisici che ha avuto. Sì, il consiglio che gli darei è quello di non rovinare tutto. Esatto. Premesso che non è che rovina tutto, una carriera così non la rovina un brutto finale. Però insomma, perché sporcarla? Quindi da questo punto di vista il consiglio di Boban è in assoluta buona fede, detto sempre in maniera molto... anche un po' ruvida come piace a lui, ma è il motivo che poi insomma, lo rende un grande opinionista, perché dice non la tocca mai piano, insomma, no? Ecco, quindi detto questo, insomma... No, ma è condivisibile comunque. Quanto, è condivisibile. Quanto ha detto Boban. Per me l'importante è che la Roma e Totti non litighino. Sì, cioè, l'importante è che non si rompa. Ecco. No, certo, che non si rompa io so la tua teoria, ed è giusta la teoria sul fatto che non è che siccome sei stato per 20 anni un grande calciatore hai diritto per forza a diventare un grande dirigente. Però credo che nel caso di Totti in maniera particolare siamo di fronte a un simbolo che è veramente enorme. Cioè, nel Pantheon della Juve c'è altro oltre a Del Piero, quasi dello stesso livello. Nel Pantheon del Milan c'è altro oltre al Maldini, quasi dello stesso livello. Nel Pantheon della Roma, fra Totti e il secondo scegliete voi chi, c'è la distanza che c'è fra Roma e Milano. Sì, assolutamente. E quindi, insomma, Totti io credo che... Che rimanga lì è in dubbio, poi bisogna capire con che ruolo, o se ha ancora voglia di giocare, perché necessariamente nella Roma. Ecco, cioè, se ha voglia di giocare, secondo me può essere pure la soluzione di farsi un anno in America, per dirti, fare un'esperienza di tipo diverso, può essere anche utile dal punto di vista della lingua, dal punto di vista... però con un rapporto... già stabilito per il futuro, perché ripeto, questa per me Totti, sarebbe la soluzione Totti deve rimanere nella Roma, più opportuna, e non è soltanto una valutazione sentimentale, non è soltanto una valutazione, no, è una valutazione commerciale, è anche commerciale, certo. Luciano, Firenze, buongiorno. Buongiorno Genta, saluto a Pardo, che lo sentivo spesso a Radio Viola e non lo sento più. Lo so, con Furio Valcareggi che salutiamo. Bravo, Valcareggi che dice che Firenze, dice questa cosa qua, che Firenze la si gira a piedi perché è una boutique e quindi non bisogna fare la tranvia, giusto? Bravo. No, grande Furione. Due cose, una sul Milan, che sono milanista io, che non so quanto sia... buono avere Bacca e Niang, perché su Go entrano sempre loro, però non creano mai un movimento particolare per i centrocampi se potesse svolgere questa azione qui. E dopo su Mancini, io ora sento sempre dire giusta ragione, perché le medaglie ce l'hanno attaccate ai petto, però anche a Manchester, ragazzi, proprio voi, ha vinto un campionato all'ultima domenica, che se quel campionato l'avessero vinto in Italia a Palazzi e ci costruiva 3 anni dietro, non ce ne dimentichiamo, visto che gli inglesi sono puliti, puritani e cosa, ve lo ricordate come vinse il campionato in Manchester? Ce lo ricordiamo. Insomma, diciamo le cose, e la Coppa Italia a Firenze ha vinto la finale lui, perché l'ha vinta Serie M, che andò via. Beh, i campionati d'Italia li ha vinti in quel modo. Insomma, però le stelle ce l'ha attaccata in petto, c'ha più stelle lui che Garibaldi, merita a lui. Però diciamo le stiose. No, ma sono tutte. Vabbè, sul fatto che campionato inglese, Palazzi, eccetera, eccetera, è una teoria circolante, ma è giusto una teoria. Vinse quel campionato, certamente non con 20 punti di vantaggio sulla seconda e con uno squadrone, ma senza gli squadroni i campionati non si vincono. Quanto al Milan, beh, adesso neanche ha tolto il disturbo per un po', mi pare, no? Fuori 2 mesi o forse di più, e adesso sarà interessante vedere la corsa al posto tra Menezes e Balotelli. Sì, sarà molto interessante vedere la corsa al posto, perché, perché chi vedi meglio in quel ruolo? Vedo meglio Menes, vedo meglio Menes, perché Menes fino a prova contraria è stato semplicemente fuori per infortunio, ma l'anno scorso è stato un giocatore molto importante. E, mentre per quanto riguarda Balotelli siamo di fronte a un'eterna promessa mancata, anche se pure lui qualche segnale incoraggiante all'inizio della stagione l'aveva fatto vedere, però insomma sì, è una, a questo punto il ballottaggio fra loro due, no, vedo avanti Menes. Rino Modena, buongiorno. Buongiorno, dica. No, niente, tanto saluto a tutti. Una cosa su, su Mancini. Sì. Io l'ho visto perché ero in albergo, io abito vicino a Modena, quando ho giocato col Carpi. Ho fatto foto, è stato gentile, con i bimbi tutto. Lo vedo adesso, mi sembra più che un allenatore un po' in crisi, mi sembra quasi un uomo un po' così. Perché anche lo sguardo, non lo so, non sondiamo il linguaggio del corpo, non sondiamo il linguaggio del corpo delle espressioni. Certamente la faccia di Mancini riflette il momento difficile dell'Inter, poi altro non saprei cosa dire. Pardo invece giocava a pallacanestro prima con il studio con una pallina blu. Sì. Perché hai visto Steph Curry che fa quelle cose lì? Mamma mia. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! With 0.6 seconds remaining. Time for Curry from half court. It's gone! He banks it in! Are you kidding me? At the end of the first that didn't count, this one's gone. Mostruoso, mostruoso. Sì. Sono le immagini che abbiamo fatto sentire. Tanta un roba. Po' di sonoro condito. Ciao Davide Pessina. Pes, come stai? Bene, bene, voi? Bene, bene, poi l'estate si avvicina. Abbiamo deciso di mettere in piedi un playground, io e Pardo, poi lui non ha... Ma andiamo ragazzi qualche non volta. Ha incrociato. Ma tu giochi Pes? Come? Giochi? No, no, ormai... Quindi è perfetto per venire a giocare con noi. Esatto, io guardo. Ci stoppi da fermo guardandoci. Ci stoppi col pensiero. Esatto. Intanto commenti questo signore qui di 1,91, Steph Curry, che... Guarda, io continuo a pensare che sta raggiungendo livelli giordaneschi. Poi non sarà mai Michael Jordan perché quello ovviamente si è costruito la leggenda volando e poi tutto il resto, però a livello di incidenza sulla squadra e sul campionato siamo lì. Sono d'accordo, sì, sono giocatori completamente diversi per caratteristiche fisiche, per caratteristiche tecniche e via dicendo, però l'impatto che hanno sul campionato, sulla mente delle altre squadre sono quasi simili. Jordan era ancora un passo in più. Però adesso diamo tempo a Steph di arrivarci. Però è ormai si vede, cioè quando gioca contro gli avversari ormai sono quasi rassegnati. Il pubblico avversario va a vedere Steph Curry per vedere cosa fa in quella giornata, se tiene di nuovo la metà campo, se ne mette 30 in un quarto, in che modo domina la partita. E se sbaglia un tiro a metà campo c'è quasi un mormorio di sorpresa, no, come dire no, questo l'ha sbagliato, ma come? L'ha voluta sbagliare apposta, l'ha fatta apposta. Sta facendo delle cose mai viste prima. No, delle cose mai viste prima per un giocatore anche con quel fisico. Sì. Beh, anche il canestro dell'85-84 del Real Madrid all'ultimo secondo col Valencia. Non è male. Di Sergio Llull, no? Sì, Llull è un altro che ne fa abbastanza di canestri del genere. Mica però per ora Steph sta abituando, diciamo che sta alzando l'asticella in maniera preoccupante per gli altri. No, poi sai anche, migliora come tutti i grandi, riesce a migliorare anche chi gli sta intorno. Certo, insomma questa è la cosa, perché poi comunque questa è una squadra che ha sicuramente lui che è dominante, però tutti posti al posto giusto. Sì. E quindi giocano bene, se tu raddoppi lui ti battono gli altri. Voglio dire, questi qui sono 53 vinte e 5 perse. Lo ripeto, 53 vinte e 5 perse. Andiamo indietro all'anno scorso, da quando diciamo, ho cominciato davvero questo gruppo, con Steve Kerr allenatore, poi c'è stato l'interim del vice. Di quota sì. Sono 120 vinte e 20 perse. Di che cosa stiamo parlando? No, no, no, non saprei. What are we talking about? 120 a 20. Tipo vent'anni fa ho visto Roma che ha battuto il Caserta con non mi ricordo chi ha segnato a metà campo. Riccio Ragazzi. Beh, basta chiedere. Ma come fai a ricordarti? Wikipedia. Perché non era così frequente. Io di più non era nemmeno a metà campo. Era meno. All'altezza della sua lunetta. Io mi ricordo una che Milano perse con tiro di Paleari contro Livorno. Paleari, certo. Paleari dalla sua area ha preso un rimbalzo difensivo. E quelli sono più casuali. Il problema per gli altri è che quelli di Steffiori non sono così casuali. No, non sono così casuali. Anzi. Poi è questione di gusti. Paolo, tu ti diverti più a vedere le schiacciate o i tiri di Curry? Io i tiri di Curry. Sì, ti appassiono di più. Ma guarda, ti dico, poi giocano bene. Golden State gioca bene. Secondo me è una squadra che gioca bene, veloce, rapida, decisioni veloci, tutti in movimento. Per cui insomma è un piacere in generale vederli. Secondo me c'è un unico grosso rischio però, l'emulazione. Questo diventa un grosso rischio. C'è tutte le nuove generazioni di giocatori che pensano di essere il nuovo Steph Curry. E rischiano di fare tante brutte figure. Beh, come nel calcio, tutti gli argentini che hanno un po' di talento, che giocano trequartisti, c'era quanti subito il paragone con Maradona. Sì. Ma già vedi, comincia a vedere già gente che tira da un metro e mezzo dietro l'arco dei tre punti, arriva corto di un metro. Evitiamolo. Cioè, lui lo fa, gli altri no. Come si dice nel wrestling, non fatelo a casa, non ci provate. No, comunque, quanti Michael Jordan potenziali abbiamo visto e vedremo. Insomma, no, sono giocatori comunque unici. E c'è tanto lavoro dietro, comunque, al di là di tutto. Non c'è dubbio. Comunque ha migliorato il ball handling, la capacità di maneggiare il pallone, di costruirsi il tiro al palleggio. Questo ogni estate passa un mese a casa sua in North Carolina a fare esercizi impressionanti con delle lucine davanti. Lui deve palleggiare, sono tre luci diverse a seconda della luce che si accende. In una frazione di secondo deve decidere: invento luce gialla, arresto e tiro, luce rossa, palleggio e penetrazione, luce verde, arresto e passaggio. In una frazione di secondo deve fare questo. Non è che le cose vengono per caso. No, non è che le cose vengono per caso e non è che i grandi campioni stiano lì a coccolarsi il loro talento prendendo il sole a Miami. Ah, no. Tutti i grandi campioni hanno fatto e fanno quel tipo di lavoro lì, ma anche nel calcio, nel basket, come in tutti gli altri sport. Grazie, Pes. Ci vediamo al campetto. Volentieri. Dai, organizziamo con la bella stagione. Invitiamo anche gli amici. Al mare, però, il campetto è in riva al mare. In riva al mare, si allarga l'aria. Scusa, se c'è il mare, io vado al mare. Il campetto deve essere. Deve essere. Tramonta un po'. Quindi. Sì, ma deve essere meglio se è grigio, urbano, pomeridiano. Io andavo i sabati a 14 anni a giocare. Sì. Bellissimo. Playground. Okay. Ciao, Davide. Ciao, ragazzi. Ciao, ci sentiamo su Sky. E invece da Steph Curry a una pennellata di calcio internazionale ti vai. Vai. And lines, hot sun and clear blue skies, the waves are crashing by. Albrecht in buona posizione, eccolo Albrecht per il cross, uscio! Il Leicester segna forse il gol più pesante della sua stagione, quando mancavano 90 secondi alla fine, è il giocatore argentino a realizzare la rete dell'1-0. Lord, the way you move your hips and lick your lips, the way you dip, you got me up so high. L'Atlético con Griezmann, ahí va el francés con la pierna zurda, lo tiene de frente a Carabajal y a Barar, cerca del área, se dio sobre la banda izquierda para Felipe Luis, el brasileño que ya pisó el área, devolvió para Griezmann, tiró. Gol del Atlético Griezmann, merci beaucoup Antoine Griezmann. Round and round your love, it winds me up. Like a hula hula, comunque per Herrera in acrobazia, tiene vivo il pallone, altro cross ancora Rashford, Rashford di testa, un'altra doppietta al 32esimo, incredibile, Marcus Rashford va avanti a colpi di doppiette. Rapido riassunto di quanto abbiamo visto, ma adesso sì, il nuovo giro di pista. De Luca voglia d'estate, eh? Non si notano queste piccole cose, eccolo là. Le canzoni, dai pezzi che sceglie. 800240024. Nicolino Roggero con noi. Nicolino Roggero da Fox. Una minaccia. No, non piace. Come va? Lo vince il Tottenham? C'è questa possibilità. Tottenham è una squadra che gioca un bellissimo football, ahimè l'ha pagato a proprio spesa la Fiorentina, però attenzione perché l'Leicester è quello che ha il calendario più morbido. Tottenham per esempio le prossime due, West Ham ed è un derby fuori casa e poi Arsenal ed è non un derby ma è il derby, quindi non facilissimo, per cui insomma tutto ancora per aria. Sì. Intanto il Leicester stasera ritorna in pista con il West Bromwich e non dovrebbe essere, insomma, teoricamente dovrebbe essere sì, un problema. Non dovrebbe essere, non dovrebbe essere. Perché non... Sì. Non so, non dovrebbe esserlo, ma non doveva esserlo neanche il Norwich, che poi è stato piegato soltanto all'89esimo. E non doveva essere un problema lo Swansea per il Tottenham, e invece il Vitorin ha creato enormi problemi, l'ha creato enormi problemi anche Paloschi, che ha segnato il suo primo gol inglese. Quindi sì, è meglio il Leicester che non il Tottenham oggi a livello di impegni, però attenzione perché poi specialmente in Inghilterra le partite si giocano per 90 minuti e la classifica interessa relativamente. Quindi insomma c'è molto da divertirsi. Questo sicuro, però io, perché ridevi prima quando si evocava il derby Arsenal? No, perché insomma io credo che è una partita che non lo so, forse bisogna tornare a finali, semifinali di Coppa d'Inghilterra per ripensare a un Tottenham Arsenal così denso, così importante, oppure ma lì era comunque una sfida solo da una parte alla vittoria dell'Arsenal che diede la matematica certezza del titolo a White Hart Lane. Insomma, mi sembra che una partita così manchi da tanto tempo, da tanti anni, sì. Cioè sì, il nord di Londra diventa il centro del mondo, al di là del fatto che ovviamente il Leicester ha in mano il boccino, quindi può decidere se fa punteggio pieno di andare a Dama e di rendere tutto il casino che fanno quelle dietro assolutamente inutile. Senti, ma il nuovo ragazzino Rashford, Nick, com'è? 18 anni, adesso stipendio decuplicato, centuplicato, non mi ricordo più. Così pronti via, un paio di gol e via. Com'è? È una storia bellissima. Il ragazzo è nato il 31 ottobre 97, per cui non so ancora se abbia la patente, non so come funziona l'esame di guida in Inghilterra, però ha superato la maggiorità soltanto da 4 mesi, per cui è possibile che abbia ancora il foglio rosa, l'equivalente del foglio rosa inglese. È uno che magari in questo momento ha appena finito il compito in classe di matematica. Però è uno che è stato buttato dentro col Midtjylland e il Manchester rischiava una clamorosa eliminazione, invece ha segnato i gol del 2-1 e del 3-1 che hanno ribaltato la partita e poi soprattutto la doppietta all'Arsenal. Sembrava anche qui una partita scontata per l'Arsenal, con il Manchester United ridotto alle macerie, e invece evidentemente il bisogno aguzza l'ingegno, è stato buttato dentro tra gli altri questo ragazzino insieme a una serie di ragazzini. La storia fra l'altro è particolare perché a un certo punto erano arrivate per lui le sirene del Manchester City e gli offriva forse anche più soldi del Manchester United, non tanto che gli dava il Manchester United, visto che parliamo ancora di uno della squadra junior, e lui è rimasto allo United perché è tifoso dello United, quindi è un po' una storia al contrario di Jimmy Grimble, famoso film. Dove c'era il ragazzino del City che rifiuta lo United proprio perché è tifoso del City, sì. E quindi è una bella storia anche questa. Ma certo, grazie Nick, alla prossima. Grazie, ciao Nicola. Posso darvi una chicca soltanto? Certo, come no. Allora, prima sentivo Davide Pessina, un grande amico. Allora io ho cominciato la mia molto tra virgolette carriera commentando la squadra di Torino su Radio Veronica One. C'era la Berloni? Ho vedi il Torino, esatto, c'era la Berloni e in campo c'era il diciottenne Davide Pessina, che ha macchiato la sua carriera perché le prime parole spese per lui le ho spese io via Interi. Ah, bene, e da lì mi ha fatto piacere questa carrambata. È lì che lui ha deciso di non fare più giocatore di basket, ma direttamente il telecronista, no? Sì, dopo... esatto. Io avrei dovuto smettere di fare il giornalista, invece purtroppo ho proseguito. Purtroppo per chi mi ascolta. Ciao Nico, un abbraccio. Ciao. Torniamo domani, Piero. Sì, colpo di testa di Tony Adams del 93, te lo ricordi? No. Contro il Tottenham, in semifinale di Coppa Inghilterra. Fammelo vedere adesso. Sì, adesso faccio vedere, però anche il 3-1 due anni prima. Vabbè, va bene. Per par condicio. Grazie a Giorgio Luca, il nostro autore, ancora auguri per il compleanno. A Andrea Roccabella in regia, a Federico Bini in redazione, ci sentiamo domani alle 2. Ti faccio vedere. Alla prossima.